Alcune ore più tardi, quando fu a casa, Caleb disse alla moglie con aria casuale di aver avuto alcune divergenze con Bulstrode e di conseguenza di aver lasciato perdere ogni idea di prendere Stonecourt, in effetti di aver rinunciato a svolgere altre attività per lui. Voleva intromettersi troppo, eh? Chiese Mrs. Gert, immaginando che il marito fosse stato toccato nel suo punto più sensibile e non gli fosse stato permesso di fare ciò che pensava giusto riguardo ai materiali e al modo di condurre il lavoro. Fece Caleb, piegando il capo, agitando la mano con aria grave. E Mrs. Gert sapeva che questo era un segno che egli non intendeva parlare oltre dell'argomento. Quanto a Balstrow, era montato quasi immediatamente a cavallo diretto a Stonecourt, ansioso di giungervi prima di Lydgate. Nella sua mente si affollavano immagini e congetture che erano espressione delle sue speranze e dei suoi timori, proprio come quando sentiamo toni dalle vibrazioni che scuotono il nostro intero organismo. L'intensa umiliazione con cui si era ritratto di fronte alla conoscenza del suo passato, ora noto a Caleb Garth e al rifiuto che questi aveva opposto al suo appoggio, si alternava e quasi cedeva il passo al senso di sicurezza per il fatto che Garth e nessun altro fosse stato l'uomo con cui Raffles aveva parlato. Gli sembrava una sorta di segno che la provvidenza intendeva salvarlo da peggiori conseguenze. In tal modo gli veniva lasciata aperta la via alla speranza della segretezza. Che Raffles fosse malato, che fosse stato condotto a Stonecourt piuttosto che altrove, il cuore di Balstrow trepidava al pensiero di probabilità che questi avvenimenti suscitavano. Se fosse accaduto che egli venisse liberato da ogni pericolo di disonore, se avesse potuto respirare in perfetta libertà, la sua vita sarebbe stata più dedita a Dio di quanto lo fosse mai stata prima. Elevò mentalmente questo voto con la speranza che sollecitasse il risultato a cui egli agognava. Tentò di credere nella forza di quella pia risoluzione, nella sua forza di provocare la morte. Sapeva che avrebbe dovuto dire sia fatta la tua volontà e lo disse spesso. Ma l'intenso desiderio che la volontà di Dio fosse la morte di quell'uomo odiato persistette. Eppure, quando giunse a Stonecourt, non poté vedere il mutamento intervenuto in Raffles senza restarne sconvolto. Se non fosse stato per il pallore e la debolezza, Balstrow avrebbe definito quel mutamento del tutto mentale. Invece di quel suo stentoreo umore da carnefice, mostrava un intenso vago terrore e sembrava biasimare l'ira di Balstrow perché il denaro era tutto sparito, era stato derubato, metà di esso gli era stato portato via. Lui era venuto lì solo perché era malato e qualcuno gli stava dando la caccia, qualcuno era sulle sue tracce. Non avevo detto nulla a nessuno, aveva tenuto la bocca chiusa. Balstrow, non conoscendo il significato di questi sintomi, vide in questa nuova suscettibilità nervosa un mezzo per intimorire Raffles e indurlo a delle confessioni sincere, e lo accusò di falsità per aver affermato di non aver detto nulla, poiché aveva appena raccontato tutto all'uomo che l'aveva raccolto sul suo calesse e l'aveva portato a Stonecourt. Raffles negò la cosa con solenni giuramenti. Il fatto era che i legami della coscienza e lui erano spezzati e quella minuta narrazione terrorizzata era stata fatta a Caleb sotto la spinta di impulsi farneticanti che erano ripiombati nell'oscurità. Balstrow si sentì di nuovo venir meno il cuore nel comprendere di non poter giungere ad afferrare la mente di quel disgraziato e di non potersi fidare di nessuna parola di Raffles in merito al fatto che maggiormente desiderava sapere, vale a dire se avevano taciuto con tutte le persone dei dintorni, eccetto Caleb Garth. La governante le aveva detto senza il minimo imbarazzo che, da quando Mr. Garth se n'era andato, Raffles le aveva chiesto della birra e dopo di ciò non aveva parlato, poiché sembrava assai malato. Da quella parte si poteva concludere che non ci fosse stata nessuna rivelazione. Mrs. Abel pensava, come i servitori di The Shrubs, che quell'uomo strano appartenesse alla sgradevole parentela che nessuno è uno dei fastidi dei ricchi. Dapprima aveva attribuito la parentela a Mr. Rigg, dove era rimasta della proprietà, la ronzante presenza di simili grossi mosconi sembrava abbastanza naturale. Come potesse essere parente anche di Balstrow non era tanto chiaro, ma Mrs. Abel concordava col marito che non si poteva mai sapere, una frase che la soddisfaceva in pieno, cosicché ci scosse la testa sopra, rinunciando ad ulteriori riflessioni. In meno di un'ora Lydgate arrivò. Balstrow gli andò incontro fuori del salotto dai pannelli in legno e disse: Mr. Lydgate, vi ho chiamato qui per un miserabile che un tempo, molti anni fa, era alle mie dipendenze. Dopo è andato in America ed è tornato a darsi tema a una vita oziosa e dissoluta. Essendo in povertà, vanta dei diritti su di me. È rimparentato alla lontana con Rig, il proprietario precedente di questo luogo, e di conseguenza ha trovato la strada fino qui. Credo che sia seriamente ammalato, a quanto pare è colpito nel cervello e io mi sento obbligato a fare per lui tutto quello che posso. Lydgate, che aveva ancora vivo il ricordo dell'ultima conversazione con Balstro, non si sentì di dire una parola più del necessario e per tutta risposta a questo resoconto si inchinò lievemente, ma proprio prima di entrare nella stanza si voltò meccanicamente e chiese: «Come si chiama?» Sapere il nome dei pazienti faceva parte degli adempimenti di un medico come di un pratico uomo politico. «Raffles, John Raffles», disse Balstrow con la speranza che qualunque cosa accadesse a Raffles, Lydgate non sapesse altro di lui. Dopo che ebbe visitato con la massima cura e esaminato il paziente, Lydgate ordinò che andasse a letto e vi fosse tenuto nella massima tranquillità. Poi andò con Balstrow in un'altra stanza. «È un caso grave, temo», disse il banchiere prima che Lydgate cominciasse a parlare. «No, e sì», disse Lydgate con aria di dubbio. «È difficile prevedere i possibili effetti di complicazioni già da tempo presenti, ma l'uomo ha una costituzione robusta, tanto per cominciare. Non mi aspetto che questo attacco sia mortale, per quanto naturalmente l'organismo si trovi in uno stato di ipersensibilità. Dovrebbe essere tenuto ben d'occhio e assistito». «Resterò qui io stesso», disse Balstrow. «Mrs. Abel e il marito sono persone inesperte. Non ho nessuna difficoltà a restare qui per la notte se mi farete il favore di recare un messaggio a Mrs. Balstrow». «Direi che questo non è proprio necessario», disse Lydgate. «Sembra abbastanza calmo e atterrito. Potrebbe diventare più intrattabile, ma qui c'è un uomo, no?» «Più di una volta sono rimasto qui qualche notte per restare in solitudine», disse Balstrow con aria indifferente. «Sono perfettamente disposto a farlo ora. Mrs. Abel e il marito possono sostituirmi o assistermi se necessario». «Molto bene. Allora è sufficiente che impartisca le istruzioni solo a voi», disse Lydgate, non provando alcuna sorpresa di fronte a una modesta stranezza di Balstrow. «Allora pensate che ci siano speranze», disse Balstrow quando Lydgate ebbe terminato di dargli le istruzioni. «A meno che non si rivelino ulteriori complicazioni, quali al momento non sono riuscito a individuare». «Sì», disse Lydgate. «Può darsi che passi a un peggioramento, ma non mi stupirei se migliorasse nel giro di qualche giorno, se vi attenete alla cura che ho prescritto. Bisogna essere fermi. Ricordate, si chiede alcolici di qualsiasi genere, di non dargliene. Secondo me, gli uomini in condizioni come le sue sono uccisi più spesso dalla cura che dalla malattia. Pure può darsi che si manifestino nuovi sintomi. Tornerò domani mattina». Dopo aver atteso il biglietto da recare a Mrs. Bulstrode, Lydgate partì a cavallo senza far congetture, innanzitutto sulla storia di Raffles, ma ripassando mentalmente l'intero argomento, che negli ultimi tempi era stato assai dibattuto in seguito alla pubblicazione dell'abbondante esperienza del dottor Ware in America sul giusto modo di trattare i casi di avvelenamento da bevande alcoliche come il presente. Lydgate, quando era stato all'estero, si era già interessato a questo problema. Era profondamente convinto che la pratica imperante di permettere le bevande alcoliche di somministrare spesso abbondanti dosi di oppio fosse errata e aveva ripetutamente seguito i dettami di questa convinzione con risultati favorevoli. Quell'uomo si trova in una condizione morbosa, pensò, ma in lui c'è ancora una buona dose di resistenza. Credo che per Balstrow sia oggetto di benevolenza. È curioso come nel carattere degli uomini coesistano fianco a fianco gesti di insensibilità e di tenerezza. Balstrow, riguardo ad alcuni, sembra che la persona meno comprensiva che abbia mai incontrato, eppure non si è risparmiato e ha speso grosse somme di denaro per scopi benefici. Suppongo che abbia qualche criterio per scoprire chi sta a cuore al cielo. Avrà deciso che io non gli sto a cuore. Questa vena di amarezza proveniva da una fonte abbondante e continuava ad allargarsi nel corso del suo pensiero mentre si avvicinava a Lockwood Gate. Non vi era tornato dal primo colloquio con Balstrow al mattino, poiché il messaggero del banchiere l'aveva trovato all'ospedale e per la prima volta faceva ritorno alla propria casa senza la prospettiva di alcun espediente possibile che gli lasciasse una speranza di raccogliere denaro sufficiente per liberarlo dalla prossima privazione di tutto ciò che rendeva ancora tollerabile la sua vita matrimoniale, tutto ciò che salvasse lui e Rosamond da quel nudo isolamento in cui sarebbero stati obbligati a riconoscere di quanto poco conforto potevano essere l'uno all'altra. E Era più sopportabile rinunciare alla tenerezza per sé che vedere che la propria tenerezza non poteva compensare la moglie per la perdita di altre cose. Le sofferenze arrecate al suo orgoglio da umiliazioni passate e future erano abbastanza cocenti, eppure nei suoi occhi quasi non si distinguevano dal dolore più acuto che le superava tutte, il dolore di prevedere che Rosamond sarebbe giunta a giudicarlo soprattutto come la causa della propria delusione e della propria infelicità. Non gli erano mai piaciuti gli espedienti della povertà e questi in precedenza non erano mai entrati a far parte di quanto egli si prospettava. Ma ora cominciava a immaginare come due persone che si amano e che avevano una buona dose di pensieri in comune potessero ridere del proprio arredamento squallido e dei propri calcoli su quanto burro e quante uova si potessero permettere. Ma l'immagine di quella poesia gli sembrava remota, come la spensieratezza dell'età dell'oro. Nella mente della povera Rosamond non c'era spazio sufficiente perché i lussi vi apparissero di poco conto. Scese da cavallo, in preda a uno stato d'animo molto triste, ed entrò in casa senza attendersi di venire salutato che dalla propria cena, e riflettendo che prima che la sera fosse finita sarebbe stato saggio mettere al corrente Rosamond della richiesta fatta a Balstrò e del rifiuto di questi. Sarebbe stato bene non perdere tempo nel prepararla al peggio. Ma la cena attese a lungo prima che egli fosse in grado di mangiarla. Infatti, nell'entrare trovò che l'agente di Dover aveva già collocato un uomo in casa e quando chiese dove si trovasse Mrs. Lydgate, gli fu detto che era nella sua stanza da letto. Egli salì e la trovò distesa sul letto, pallida e muta, senza una risposta, neppure sul viso, a qualsiasi parola o sguardo da parte di lui. Si sedette presso il letto e, piegandosi su di lei, disse quasi con un grido di implorazione: "Perdonami per questa sofferenza, mia povera Rosamond. Soltanto amiamoci." Lei lo guardò in silenzio, ancora con la vuota disperazione sul volto, ma le lacrime cominciarono a riempirle gli occhi blu e le labbra si misero a tremare. L'uomo forte aveva dovuto sopportare troppe cose quel giorno. Lasciò cadere il proprio capo accanto a quello di lei e si mise a singhiozzare. Non le impedì di andare dal padre di buon'ora al mattino, adesso pareva che avrebbe fatto bene a non impedirle di fare ciò che lei voleva. Dopo mezz'ora tornò e disse che il padre e la madre desideravano che andasse ad abitare con loro mentre le cose si trovavano in quello stato disgraziato. Il padre disse di non poter far nulla per il debito, se avesse pagato quello ce ne sarebbe stata un'altra mezza dozzina. Avrebbe fatto meglio a tornare dai suoi genitori finché Lydgate non le avesse trovato una casa confortevole. Hai qualcosa da obiettare, Tertius? Fa come vuoi, disse Lydgate, ma le cose non arriveranno subito a un punto critico. Non c'è fretta. Non me ne andrò fino a domani, disse Rosamond. Avrò bisogno di mettere in valigia i miei vestiti. Ah, io aspetterei un po' più lungo di domani. Non si sa mai cosa possa succedere, disse Lydgate con amara ironia. Può darsi che mi rompa l'osso del collo e questo potrebbe renderti le cose più facili. Era una delle disgrazie di Lydgate e anche di Rosamond che la sua tenerezza verso di lei, che era sia suggerita dal sentimento che da una ben meditata decisione, fosse inevitabilmente interrotta da questi scoppi di indignazione o di ironia o di protesta. Lei li considerava completamente ingiustificate e la versione che questa eccezionale severità suscitava in lei rischiava di rendere inaccettabile la tenerezza più insistente. Vedo che non desideri che io me ne vada, disse con aria freddamente mite. Perché non puoi dirlo senza quel genere di violenza? Resterò finché non mi chiederai di fare altrimenti. Lydgate non disse altro, ma uscì per il giro di visite. Si sentiva ammaccato e distrutto, e sotto i suoi occhi vi era una linea scura che Rosamond non aveva notato in precedenza. Non riusciva a sopportare la vista di lui. Tertius aveva un modo di prendere le cose che gliele rendeva assai peggiori. Capitolo 70. La prima cosa che Palstrow fece dopo che Lydgate ebbe lasciato Stonecourt fu di frugare nelle tasche di Raffles, in cui immaginava dovesse trovarsi sicuramente delle indicazioni, sotto forma di conti d'albergo, dei luoghi in cui si era fermato, se non aveva detto il vero affermando di essere arrivato direttamente da Liverpool perché era malato e non aveva soldi. Vi erano vari conti cacciati nel taccuino, ma nessuno di una data posteriore a Natale in nessun'altra città, tranne uno che portava la data di quella mattina. Questo era arrotolato con un manifestino su una fiera di cavalli in una delle sue tasche posteriori e dimostrava il pagamento della permanenza di 3 giorni in una locanda a Bilkley, dove veniva tenuta la fiera. una città distante almeno 40 miglia da Middlemarch. Il conto era alto e dato che Raffles non aveva bagagli con sé, sembrava probabile che avesse lasciato là la propria valigia in pagamento, allo scopo di risparmiare i soldi per il biglietto di viaggio. Infatti il suo portafogli era vuoto e aveva solo un paio di monete da 6 soldi e qualche soldino sparso per le tasche. Balstrow ricavò un senso di sicurezza da queste indicazioni che Raffles si era veramente tenuto lontano da Middlemarch dal tempo della sua memorabile visita natale. Lontano, in compagnia di gente estranea a Balstrow, che soddisfazione avrebbe potuto arrecare all'indole tormentatrice e autoesaltatrice di Raffles a raccontare vecchie storie scandalose su un banchiere di Middlemarch? E che danno gli avrebbe arrecato se aveva davvero parlato? La cosa principale adesso era di sorvegliarlo finché sussisteva un qualche pericolo di quel delirio intellegibile. Quell'impulso inspiegabile raccontare che sembrava averlo indotto ad aprirsi con Caleb Garth, e Balstrow avvertì un gran timore che un qualche impulso del genere se ne impossessasse alla vista di Lydgate. Rimase alzato da solo con lui per tutta la notte, dopo aver ordinato alla governante di andare a letto vestita in modo da essere pronta quando l'avesse chiamata, adducendo a motivo la propria mancanza di sonno e l'ansia di eseguire gli ordini del medico. In effetti, li eseguì fedelmente. Sebbene Raffles chiedesse incessantemente del brandy e dicesse che gli sembrava di sprofondare, che la terra gli fuggiva da sotto. Fu irrequieto e non dormì, ma rimase tuttavia impaurito e trattabile. Quando gli venne offerto il cibo ordinato da Lydgate, che gli rifiutò, e gli vennero negate altre cose che gli chiese, parve concentrare tutto il proprio terrore in Balstrow, scongiurandolo in tono implorante di mettere da parte l'ira e di non vendicarsi di lui, facendolo morire di fame. E dichiarando con solenni giuramenti di non aver mai detto ad anima viva alcuna parola contro di lui. Balstrow pensò che non gli sarebbe piaciuto che Lydgate udisse anche questo, ma un sintomo più allarmante, nell'agitata alternanza del suo delirio, fu che alle prime luci del mattino Raffles all'improvviso immaginò che fosse presente un medico e si rivolse dicendo che Balstrow voleva farlo morire di fame per vendicarsi del fatto che egli aveva parlato, quando invece non aveva aperto bocca. I modi imperiosi e la forza di determinazione tipici di Balstrow gli furono di grande aiuto. Quest'uomo, dall'aspetto delicato, egli stesso sconvolto mentalmente, trovò lo stimolo necessario nella propria situazione disperata e per tutta quella nottata e quel mattino difficili, mentre aveva l'aria di un cadavere animato, tornato a muoversi senza calore di vita, padrone di sé. Grazie alla propria gelida impassibilità, la sua mente fu intensamente al lavoro per pensare a ciò da cui doveva guardarsi e ciò che gli avrebbe assicurato la tranquillità. Qualunque preghiera levasse, malgrado riconoscesse in cuor suo la disgraziata condizione spirituale di quell'uomo e il dovere di sottomettersi egli stesso alla punizione divina a lui destinata, invece di desiderare il male di un altro, in tutto questo sforzo di condensare le parole in un chiaro stato d'animo, in lui si faceva strada e si diffondevano con una vivezza irresistibile le immagini degli avvenimenti desiderati. E al seguito di quelle immagini venivano le loro scuse. Non poteva fare meno di vedere la morte di Raffles e scorgere in essa la propria liberazione. Che cos'era la scomparsa di questa creatura miserabile? Era impenitente, ma i criminali pubblici non erano impenitenti, eppure la legge decideva la loro sorte. Se la provvidenza in questo caso avesse decretato la morte, non ci doveva essere nulla di peccaminoso nel considerare la morte un esito desiderabile, se egli non si impiccava ad affrettarla, si faceva scrupolosamente ciò che gli era stato ordinato. Anche su questo punto poteva commettere uno sbaglio, le prescrizioni degli uomini erano passibili di errore. Lydgate aveva detto che la cura aveva affrettato la morte, e perché non il suo metodo di cura? Ma naturalmente l'intenzione era tutto in tema di ragione e di torto. E Balstrow decise di mantenere la propria intenzione separata dal proprio desiderio. In cuor suo affermò di voler ubbidire agli ordini. Perché avrebbe dovuto mettersi a discutere sulla giustezza di questi ordini? Era solo il consueto stratagemma del desiderio che ricorrere a qualsiasi irrilevante scetticismo, trovando maggiore spazio per sé in ogni incertezza riguardo agli effetti, in ogni oscurità che ha l'apparenza dell'assenza di leggi. Tuttavia, eseguì gli ordini. Le sue ansie si volgevano continuamente a Lydgate e il ricordo di ciò che aveva avuto luogo fra di loro il mattino precedente era accompagnato da sensazioni che non si erano assolutamente risvegliate durante la scena vera e propria. Allora egli si era preoccupato ben poco della penosa impressione destinata in Lydgate dal suggerito mutamento all'ospedale. o dello stato d'animo nei suoi confronti che poteva suscitare ciò che riteneva il proprio rifiuto giustificato di fronte a una richiesta alquanto esorbitante. Ora rivide la scena, rendendosi conto che forse si era inimicato Lydgate e che con un desiderio nuovo di propiziarselo, o meglio di creare in lui un forte senso di obbligo personale. Si dolse di non aver addirittura fatto subito un irragionevole sacrificio finanziario, infatti nel caso di sgradevoli sospetti o addirittura di informazioni raccolte dal delirio di Raffles, Balstrow avrebbe pensato di avere una difesa nella coscienza di Lydgate se gli avesse concesso un favore di grande importanza. Ma il rimorso forse era giunto troppo tardi. Che strano, penoso conflitto nell'anima di quest'uomo infelice che bramava da anni di essere migliore di quanto non fosse, il quale aveva castigato le proprie passioni egoiste e le aveva rivestite di abiti severi, così che aveva camminato con esse come un coro devoto, fino ad ora che un terrore si era levato fra di loro ed esse non potevano più cantare, ma cacciavano fuori all'unisono un grido per invocare la salvezza. Era quasi mezzogiorno quando Lydgate arrivò. Si era proposto di venire prima, ma era stato trattenuto, disse, e il suo sguardo affranto fu notato da Bulstrode. Ma immediatamente si diede a pensare al paziente e si informò dettagliatamente su tutto quello che era accaduto. Raffles era peggiorato, non voleva prendere alcun cibo, era adesso continuamente, aveva dei vaneggiamenti agitati, ma non violenti. Contrariamente all'attesa allarmata di Bulstrode, fece poco caso alla presenza di Lydgate e continuò a parlare o a mormorare in maniera sconnessa. Cosa ne pensate? Chiese Balstrò a quattro occhi. I sintomi sono peggiorati. Avete meno speranze? No, penso ancora che possa farcela. Resterete qui voi? Chiese Lydgate, guardando Balstrò con una domanda repentina che lo mise a disagio, sebbene in realtà essa non nascesse da alcuna congettura sospettosa. Sì, penso di sì, disse Balstrò, controllandosi e parlando con decisione. Mrs. Balstrò è al corrente dei motivi che mi trattengono. Mrs. Abel e il marito non hanno sufficiente esperienza per essere lasciati del tutto soli e questo genere di responsabilità non è incluso nel servizio che mi prestano. Avete nuove istruzioni, immagino. La principale nuova istruzione che Lydgate aveva da dargli riguardava la somministrazione di dosi estremamente scarse di oppio nel caso che l'insonnia persistesse dopo diverse ore. Aveva preso la precauzione di portarsi dell'oppio in tasca e diede dettagliate istruzioni a Balstrow riguardo alle dosi e al momento in cui dovevano cessare. Insistette sul rischio di continuare a somministrargliele e ripeté l'ordine che non gli venisse data nessuna bevanda alcolica. Da ciò che vedo di questo caso, disse infine, il narcotismo è l'unica cosa che mi farebbe assai paura. Può farcela anche senza molto cibo. C'è una gran dose di vitalità in lui. Anche voi sembrate malato, Mr. Lydgate. Una cosa insolita, posso dire senza precedenti da quando vi conosco, disse Balstrow, mostrando una sollecitudine così diversa dall'indifferenza del giorno prima, quando la sua attuale noncuranza per il proprio affaticamento era diversa dalla sua abituale ansia egoista. Temo che siate afflitto da qualcosa. Sì, è vero, disse Lydgate in modo brusco, tenendo il cappello in mano e pronto a congedarsi. Qualcosa di nuovo, temo, disse Balstrow con aria indagatrice. Vi prego, sedetevi. No, grazie, fece Lydgate con una certa hauteur. Vi ho accennato ieri quali erano le mie condizioni finanziarie. Non c'è niente da aggiungere, tranne che da allora in casa mia sta avendo luogo l'esecuzione del sequestro. Con una breve frase si possono dire un sacco di guai. Vi saluto. Restate, Mr. Lydgate, disse Balstrow. Ho ripreso in esame l'argomento. Ieri sono stato preso di sorpresa e l'ho considerato con superficialità. Mrs. Balstrow pensa con ansia alla nipote e io stesso sarei addolorato di un mutamento in peggio delle vostre condizioni. Le richieste che mi vengono rivolte sono numerose, ma a ripensarci giudico giusto affrontare un piccolo sacrificio piuttosto che lasciarvi privo di aiuto. Avete detto, mi pare, che 1.000 sterline sarebbero state del tutto sufficienti per liberarvi dai vostri oneri e consentirvi di riguadagnare una posizione sicura? Sì, disse Lydgate, mentre un grande soprassalto di gioia entro di lui vinceva ogni altro sentimento. Sarebbero servite a pagare tutti i miei debiti e a lasciarmi una piccola somma a disposizione. Potrei mettermi a fare economie nel nostro tenore di vita e in breve tempo la mia clientela potrebbe aumentare. Se aspettate un momento, Mr. Lydgate, Vi firmerò un assegno per quella somma. Mi rendo conto che l'aiuto per essere efficace in questi casi deve essere completo. Mentre Balstrow scriveva, Lydgate si volse verso la finestra pensando alla propria casa, pensando alla propria vita, col suo bel inizio salvato dalla frustrazione, i suoi buoni propositi ancora intatti. Per questo potete darmi una lettera di cambio, Mr. Lydgate, disse il banchiere allungandogli l'assegno, e dentro breve tempo spero potrete trovarvi in condizioni di ripagarmi gradualmente. Per il momento godo assai al pensiero che sarete liberato da ulteriori difficoltà finanziarie. Vi sono profondamente obbligato, disse Lydgate. Mi avete ridonato la prospettiva di lavorare con una certa gioia e qualche possibilità di fare bene. Gli parve cosa assai naturale che Balstrow avesse ripensato al suo rifiuto, era in armonia col lato più munifico del suo carattere. Ma mentre rimetteva il proprio cavallo al piccolo galoppo per poter arrivare presto a casa, comunicare la bella notizia a Rosamond e farsi dare del liquido alla banca per pagare l'agente di Dover, gli attraversò la mente un pensiero, suscitando una sgradevole impressione, come se un volo di ali scure, segno di malaugurio, attraversasse la sua immaginazione. Il pensiero di un cambiamento che alcuni mesi avevano provocato in lui, il fatto di gioire immensamente per avere un forte obbligo personale, il fatto di gioire immensamente per aver ricevuto denaro da Balstrode.